in primo piano. Giovedì 14 luglio, le aperture sono sempre dedicate alla manovra finanziaria, sono i giorni davvero decisivi. Domani dovrebbe esserci l'approvazione. Tagli ai bonus fiscali per 20 miliardi, così apre il Sole 24 Ore, che oggi dedica anche oggi 20 pagine alla manovra, al risparmio degli italiani, dunque tutti i dettagli sul Sole. Vediamo gli altri titoli sul Corriere della Sera. Stretta su sanità e pensioni. Per Repubblica, manovra, il ticket scatta subito. La Stampa, sanità, il ticket scatta subito. Taglio alle pensioni d'oro. Per Il Giornale, giustizia e speculazione, Tremonti resiste. Libero, Fini, la nuova casa, un anno dopo Monte Carlo. Il presidente della Camera inaugura la sede del suo partitino. Per Il Fatto Quotidiano, non si dimette nessuno. Il ministro Romano, imputato per mafia, annuncia non mi muovo. Il ministro Tremonti, hic manebimus optime. L'Unità, ticket vergogna. Per Il Messaggero, manovra, torna il ticket, mentre Il Manifesto mette una grande foto di Tremonti in prima pagina e col titolo saldissimi. Insomma, questa del ticket è sicuramente il ticket sanitario che dovrebbe partire da lunedì, cari italiani, ma tra poco lo vedremo, è una delle novità della manovra dell'ultima ora. Le segnalazioni da cui voglio partire, questa la troviamo un po' su tutti i giornali, il Corriere vi dedica mezza pagina, da qui la leggo, ma è un po' ovunque questa vicenda che è stata portata alla luce dalla CGIL. È in coma, operaia licenziata. L'azienda manda una lettera, intralcia la produzione. È la vicenda che riguarda, una vicenda drammatica, che riguarda una mamma che nel gennaio del 2010 ha perso conoscenza, viene portata d'urgenza in ospedale, la diagnosi è subito impietosa, aneurisma cerebrale, da lì uno stato di coma vegetativo. Un'operaia bergamasca dal 10 gennaio 2010 vive in quello stato a seguito di un'emorragia cerebrale ed è stata destinataria di una lettera di licenziamento da parte della ditta per cui lavorava. Si legge nella lettera che il Corriere pubblica anche in foto: la discontinuità della sua prestazione lavorativa crea evidenti intralci all'attività produttiva. Questo il ben servito messo su nero su bianco dalla nuova Tecnostampi, ditta di materie plastiche con 90 dipendenti che ha sede a Laglio alle porte di Bergamo. La CGIL ha voluto denunciare questa vicenda con il marito, che dice: io posso capire le esigenze di legge, il marito di questa signora, non accetto però certi termini, chiedo rispetto per mia moglie. Per la verità l'azienda si difende con un comunicato stringato, fa sapere il Corriere, con informazioni della CGIL altamente fuorvianti. Ci tuteleremo nelle opportune sedi, ma certo questa vicenda, che per esempio il Secolo XIX mette in prima pagina, addirittura quasi in apertura sopra il titolo ticket subito e stretta sulle pensioni, l'operaia in coma, l'azienda la licenzia, è davvero una brutta vicenda che viene messa in risalto da tutti i giornali oggi. La seconda segnalazione da cui voglio partire è questa. Beh, insomma, si discute la manovra in aula, ci sono momenti di fibrillazione, vedremo che tra l'altro c'è stata una sorta di rivolta da parte di tutti i parlamentari avvocati, e sono tanti, quando si parlava della questione degli ordini professionali da rivedere, ma insomma c'è tempo anche per un'altra battaglia. La battaglia è della Lega, crocifisso in aula. La proposta leghista scatena le proteste, La Stampa vi dedica una intera pagina, pagina 9, con Francesca Schianchi. Due deputati, primi firmatari della Lega, Maurizio Fugatti e Giovanna Negro, chiedono che venga messo il crocifisso nell'aula di Montecitorio. Vicino al grande calendario, forse dietro all'imponente seggio del presidente, accanto alla bandiera italiana, chissà in quale altro punto dell'aula della Camera, ma da qualche parte la Lega chiede che venga esposto il crocifisso. Si prende spunto dalla sentenza definitiva del 18 marzo 2011 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, riguarda l'esposizione del crocifisso negli edifici pubblici. per dire, insomma, è vergognoso, dicono i leghisti, che e sarebbe un errore imperdonabile per il nostro paese ignorare da dove deriva la sua stessa democrazia, e dunque ci vuole il crocifisso da esporre in aula. Dunque, momenti di fibrillazione per la manovra, ma c'è anche un momento per questa battaglia da parte della Lega. Ma sì, c'è spazio per un'altra segnalazione che riguarda Elton John, che cosa, anzi Sir Elton John, che ha fatto un'unica data a Padova in Italia, l'unica data in Italia era Padova per un concerto, e Libero a pagina 13 racconta che a un certo punto Elton John, che è uno maniacale nella sua, nelle sue pretese, quando arriva vuole che tutto sia in perfetto ordine, lo staff dei suoi organizzatori e il suo staff pretendono tante cose, vabbè, insomma, si è messo era a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, per la verità. Si è affacciato al suo camerino, ha visto un gruppetto di zingari attorno a una fontanella dei giardini pubblici che lavano e stendono i panni su una staccionata. Ha detto: i panni stesi mi turbano. Ha fatto chiamare la polizia è arrivata e ha sgomberato tutto. E tanto che ora qualcuno a Padova dice: vieni, vieni, torna Elton John, perché il potere di Sir Elton John, l'unico in grado di fare sgomberare magari degli zingari che in quel momento a qualcuno danno fastidio. Sta di fatto che Elton John ha fatto fare una chiamata, non è che ha chiamato lui, ha fatto fare una chiamata, perché da uno dei suoi tanti assistenti è arrivata la polizia, ha sgomberato tutto. I panni stesi mi turbano ed Elton John fa sgomberare i rom. Giustamente ci scrive subito un ascoltatore, Damiano da Roma, a dire: ma come Elton John unica data? Ieri era a Roma in concerto. Sì, no, chiedo scusa, è l'unica data del nord Italia, scriveva Libero, non l'unica data d'Italia. Comunque Elton John ha fatto sgomberare dei ragazzini in Roma che gli davano fastidio. Questo è il senso della notizia. Allora la manovra che prende sempre più forma. Domani dovrebbe esserci l'approvazione definitiva, quindi entro questa settimana, come promesso. Ci sono le ultime novità che spuntano, ripeto, oggi il Sole dedica 20 pagine a questo, alla manovra, al risparmio degli italiani. Agevolazioni, tagli per 20 miliardi, questo è il titolo del Sole a pagina 3 con Marco Mobili, che racconta le ultime novità. Dal taglio delle agevolazioni fiscali e assistenziali nel 2014 arriveranno 20 miliardi di euro, non più gli iniziali 15 ipotizzati dal ministro Tremonti. Si rafforzano così di almeno altri 5 miliardi i saldi della manovra, che dovrà portare l'Italia al pareggio di bilancio entro il 2014. Le modifiche, le ultime, sono, si spazia dai costi della politica, i ticket sanitari, ritocchi alle pensioni, il prelievo sulle stock option, gli ammortamenti per i beni in concessione alla progressività dell'imposta di bollo sui depositi titoli, per chiudere coi ritocchi alla stretta sulle incompatibilità dei giudici tributari e le norme di principio sulle liberalizzazioni delle professioni e le privatizzazioni. Questo, diciamo, l'elenco delle novità. Anche se ce ne sono alcune che davvero prendono le prime pagine sui giornali. Due su tutte. La prima: tornano i ticket da 10 euro sulle visite, cari italiani, forse da lunedì stesso o forse da martedì. Il Corriere vi dedica pagina 3. Torna il ticket sanitario tra le proteste. Abbiamo visto i titoli di apertura di alcuni giornali. C'è chi titola come l'unità ticket vergogna. Come il Messaggero, manovra, torna il ticket. Insomma, questo è davvero forse la novità che soprattutto coinvolge tutti gli italiani. L'intervento è questo riguardo al ticket sanitario, sul quale c'è un coro di no quasi unanime, e però il dato di fatto è che potrebbe partire già da lunedì o martedì questa novità. Staremo certamente a vedere, è prevista nella manovra. La seconda questione che era prevista in manovra e che e poi ha fatto registrare una vera e propria ribellione, si può anche dire, da parte di alcuni parlamentari, un gruppo di parlamentari, tutti quelli che fanno una professione specifica, vale a dire gli avvocati in Parlamento, è questa. Quando si è parlato di liberalizzazione, Subito gli ordini sono insorti, è stata una giornata di fibrillazione ieri, conferenza stampa convocata d'urgenza da parte per esempio di Guido Alpa, il Consiglio Nazionale Forense, che ha espresso sdegno, preoccupazione per le iniziative in cui abbiamo appreso in queste ore di supposte liberalizzazioni che si vorrebbero introdurre artatamente nella manovra. Insomma, sto leggendo dall'articolo del Sole 24 Ore, gli ordini frenano la liberalizzazione dopo le proteste, rivisto l'emendamento sugli albi, il baluardo è nella Costituzione. Cioè, traduco, si era sparsa la voce di rilanciare sul tema delle liberalizzazioni e dunque degli ordini professionali. Che cosa è successo? È successo quello che tutti i giornali fanno registrare, vale a dire che gli avvocati parlamentari sono letteralmente insorti. Eccolo qui, leggiamo da alcuni giornali. Il Secolo XIX, pagina 5, gli avvocati di PDL fanno tremare il governo. La minaccia, non toccate l'ordine o stop alla manovra. E tra l'altro c'è un'intervista a lato proprio al professor Guido Alpa, al presidente del Consiglio Nazionale Forense, che dice: non siamo una corporazione, ci ricattano con la crisi. Ma il vero tema, sottolineato da tutti, è proprio questo. Anche il Corriere dedica pagina 6. Gli onorevoli avvocati stoppano l'esecutivo, no all'abolizione degli ordini, e allora il governo rinuncia. Sono 134 gli avvocati e molti del PDL, anche il ministro La Russa, che è avvocato, si è schierato con quelli che definisce il Corriere i 134 ribelli. C'è anche un commento di Antonio Polito a pagina 6, quella nota stonata in Parlamento, questo è il titolo, scrive Polito, fin dai tempi di Azzecca Garbugli c'è un tipo di avvocato che sta sul gozzo agli italiani, ma ci vorrebbe un altro Manzoni per descrivere la specie professionale che ha proliferato in questi anni, l'avvocato parlamentare. Arruolati in gran numero in aule legislative che si occupano troppo di processi imputati, non paghi di poter scrivere leggi sulle cause che difendono e di essere perciò beneficiati da parcelle di sogno. E i principi del foro che militano il PDL si sono poco a poco trasformati in un vero e proprio partito nel partito. E allora, eccolo qui. Nel momento, al punto che ieri, mentre tutta Europa, i mercati internazionali, il Quirinale, Palazzo Chigi, il Parlamento chiedevano all'unisono una prova di serietà nazionale con l'approvazione rapida e senza giochetti della manovra, ecco ribalzare su a minacciare di far cadere il loro governo se dal decreto non saltano le norme di liberalizzazione che minacciano di abolire l'ordine, ottenendone ovviamente la riscrittura. Naturalmente tutti hanno diritto a difendere i propri interessi, gli avvocati come i notai, i pensionati come gli operai. Solo che mentre queste due ultime categorie non sono rappresentate in Parlamento, le prime due sì, e anche abbondantemente. Dunque usano il proprio mandato elettorale per proteggere il loro interesse di categoria, il che invece è del tutto illegittimo. Così scrive Antonio Polito, insomma un commento molto molto duro su questa prova di arroganza, la definisce, degli avvocati parlamentari. Ci seguono e mi seguono tantissimi avvocati, anche mio cugino avvocato so già che mi starà tartassando di messaggini per dirmi che dici. Però sta di fatto che tutti i giornali, anche il Giornale a pagina 4, gli avvocati deputati minacciano il voto contro, via la norma sugli ordini, e anche il Giornale con Gian Maria De Francesco scrive e davvero non era proprio il momento per il PDL di creare tutto questo ingiustificato marasma, questa difesa della corporazione che antepone i propri interessi a quelli dei cittadini. Sbagliata nella tempistica questa difesa. Tra l'altro c'è un'altra difesa di casta, qualcuno potrebbe dire, che è subito scattata. C'era un emendamento che prevedeva nella manovra l'incompatibilità tra le cariche di parlamentare e presidente della provincia, per esempio, e sindaco a qualsiasi livello. Ovviamente pare che sia saltato per delle opposizioni interne da parte di qualche parlamentare. Il quotidiano Libero la titola così, in maniera molto molto dura, mettendo insieme ticket sanitario e la questione degli ordini e la questione anche delle pensioni: vecchi e malati pagano il conto alla casta. Così Franco Bechis, il vice direttore a pagina 5, il ministro Tremonti aveva provato a tagliare le unghie alle corporazioni ma ha dovuto arrendersi. Avrebbe rischiato il posto. Sfumano così le liberalizzazioni osteggiate da avvocati e notai. Niente da fare, ecco qui, anche per il no ai doppi incarichi. Va bene, questo è il clima. Il clima invece politico qual è? Sapete, la manovra in questi giorni ha sempre due riflessi, quello tecnico e quello delle conseguenze politiche. Tremonti, del quale si vociferava, si dimette, dopo la manovra si dimette, ieri ha detto, citando Tito Livio, hic manebimus optime. E quindi ha detto, altro che chi pensa che me ne vado ha fatto male i suoi conti. Nonostante insomma anche le voci, nonostante l'inchiesta che coinvolge un suo stretto ex collaboratore Marco Milanese, chi pensa che me ne vada ha fatto male i suoi conti. C'è però tutto l'aspetto politico del rimpasto, il rimpasto di governo, perché una volta che ci sarà l'approvazione della manovra, che cosa succede? Beh, intanto il Corriere della Sera fa notare che il ministro Alfano, che è ancora ministro della giustizia, vuole solo dedicarsi al partito di cui è stato eletto segretario unico e dunque non vede l'ora. Forse già oggi o addirittura forse domani, qualcuno dice forse già ieri voleva dimettersi, non vede l'ora di lasciare il posto alla giustizia. Lasciando scoperto il posto alla giustizia, ovviamente c'è una casella da riempire. Resta il piano rimpasto, il nodo Alfano, così titola il Corriere a pagina 10. Tutti tendono a escludere una scelta traumatica, per esempio anche quella di una rottura tra Berlusconi e Tremonti, però sta di fatto che il Ministero della Giustizia va riempito come casella. Ieri si parlava di Frattini ha detto, leggo stupito queste notizie sui giornali, e alla domanda qualora mi fosse chiesto, dice, la domanda è irricevibile, qualora le fosse, ma siamo seri. Si vocifera dell'onorevole Bernini, si vocifera dell'onorevole Donato Bruno, spunta l'idea invece sia sul Corriere che sulla Stampa di Renato Brunetta alla giustizia. Io la registro perché due giornali la lanciano, sia il Corriere che la Stampa, circolano i nomi più svariati, scrive la Stampa, è saltato pure fuori quello di Renato Brunetta che lascerebbe così la funzione pubblica. Sta di fatto che Tremonti invece dice rimango assolutamente. Un Tremonti che l'Unità, tra l'altro, fa notare a pagina 5 nel commento Il Congiurato, un commento che c'è sempre per cercare di capire nelle stanze del potere qualcuno che magari spiffera qualcosa. Un Tremonti che pare si sia addormentato, assopito durante la riunione con le regioni un paio di giorni fa nell'illustrare la manovra. Non era mai capitato. A Berlusconi era accaduto spesso, fa sapere Il Congiurato sull'Unità in questa nota pagina 5. A Tremonti mai, almeno fino a martedì. Gli esponenti dell'opposizione che lo hanno incontrato al Senato hanno detto di averlo visto assopirsi. Una volta accortosi della gaffa, si è giustificato con un scusate, sono due notti che non dormo. D'altronde sono momenti anche difficili. Mentre Berlusconi non parla, ormai la strategia è abbastanza chiara. Ieri è stata cancellata anche una conferenza stampa col ministro Brambilla che era prevista. Berlusconi non parla fino all'approvazione della manovra, ma secondo anche il Riformista, secondo la Repubblica, secondo il Corriere, è un silenzio davvero forzato. Ci sono dunque e abbondano in retroscena quello che Berlusconi direbbe ai suoi stretti collaboratori. Secondo Repubblica, secondo Carmelo Lo Papa, pagina 3, si è dato ancora 36 ore di blackout proprio per non influenzare nulla, ma questa è la frase: per adesso siamo in mano a broker e PM, questo avrebbe detto Berlusconi, ma presto faremo capire chi guida e governa questo paese che fino a prova contraria ancora non è commissariato. Questo ha detto ai suoi amici che sono andati a trovarlo, ai suoi collaboratori, ai parlamentari che sono andati a trovarlo in quello che Repubblica definisce il bunker di Palazzo Grazioli. Questa non è ancora una Repubblica presidenziale in assenza di una riforma costituzionale, non è ancora commissariata. Repubblica parla ancora di possibili sostituzioni, di Tremonti, si parla di Monti, di Bini Smaghi al tesoro, ma sta di fatto sono tutte illazioni, sono tutti retroscena, come la frase che avrebbe detto Berlusconi secondo il Corriere, che è questa, potremmo andare anche a votare a marzo e comunque vada io prenderei un sacco di voti, anche da solo e con un altro partito, e sarò determinante. Che vuol dire con un altro partito? Non lo so. Non parla Silvio Berlusconi, parla invece Marina Berlusconi, la figlia, presidente di Mondadori, oggi fa uno sfogo molto molto duro su Panorama, che esce il giovedì. Il titolo della copertina di Panorama è La grande rapina. Il direttore Giorgio Mulè intervista Marina Berlusconi, da lei ripartiremo dopo il traffico. La grande rapina, così titola Panorama oggi in copertina, parla Marina Berlusconi. È un'intervista molto nella quale attacca molto duramente, l'intervista di Giorgio Mulè, vale a dire il direttore di Panorama. E vi spiego perché: per aggredire mio padre le sue aziende sono state stravolte le regole del diritto, dice Marina Berlusconi, attacca duramente. Le dico con chiarezza che c'è un tentativo fin troppo evidente di cancellare le nostre aziende dalla storia economica di questo paese, e con altra chiarezza dico non ci riusciranno. Ribadisce: non faremo ricorso per sospendere il pagamento, avremmo dovuto chiederlo a quegli stessi giudici che hanno emesso questa sentenza, una sentenza che grida vendetta. E poi ancora parla di eventuale complotto, nel senso, dice Marina Berlusconi, faccio io una domanda: quando alcuni magistrati di Milano, e sottolineo Milano, condannano il gruppo del Presidente del Consiglio a versare, o meglio finanziare con 560 milioni l'editore di un gruppo che predica ogni giorno l'eliminazione politica di Berlusconi, tutto questo non le sembra uno scandalo? E poi vabbè, entra nel merito della sentenza, parla anche della famosa corruzione di uno dei giudici del Lodo Mondadori e ribadisce la linea di difesa della Finives, che è questa: la sentenza che annullava il famoso Lodo Mondadori venne emessa dalla Corte d'Appello di Roma, il collegio era composto da 3 giudici, uno di loro è stato ritenuto colpevole di corruzione. E questo è un primo fatto. Secondo fatto, gli altri 2 giudici non sono mai stati corrotti. La matematica dice che il terzo magistrato, ammesso che fosse corrotto, era in minoranza. E poi l'attacco molto duro a De Benedetti. I giudizi su De Benedetti li dà la sua storia. Per dimostrare che quello di De Benedetti è un capitalismo cannibale, basta guardare la sua straordinaria capacità non di creare ma di distruggere, non di produrre benefici per tutti ma vantaggi solo per se stesso, lo conferma la sua parabola costellata di fallimenti industriali, a cominciare da quello storico dell'Olivetti, di incursioni manageriali molto discusse come i 4 mesi alla Fiat o i 40 giorni all'Ambrosiano di Roberto Calvi, di scorribande finanziarie con contorno di parenti stretti sanzionati per insider trading, per non parlare delle tante scommesse politiche perdute in malo modo. Insomma, un'accusa durissima. De Benedetti è un cannibale, fa il capitalismo cannibale. E infine la questione TV. Saremmo al paradosso assoluto, quella della TV per De Benedetti è sempre stato un sogno mai realizzato ma mai abbandonato, e forse non è un caso che da settimane i suoi giornali abbiano lanciato l'offensiva di disinformazione su Mediaset, perché forse De Benedetti sta davvero pensando di comprarsi la 7 proprio con i nostri soldi. Questo è un po' il sunto di un'intervista che poi parla anche di politica, parla di tante cose. Sta di fatto che sulla politica c'è una minoranza, dice Marina Berlusconi, potente, determinata, che applica agli avversari la legge della giungla, ma così il paese va alla deriva. E sul futuro spero che la sinistra rispettosa e non forcaiola rialzi la testa e contribuisca a cancellare l'immagine di Piazzale Loreto. Così Marina Berlusconi, intervistata da Panorama. C'è poi la vicenda del ministro Romano, che è indagato e ora per il quale è chiesto il processo per mafia. Secondo il pentito Campanella avrebbe avuto rapporti con un boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro, come Cuffaro avrebbe dato il suo assenso all'inserimento nelle liste per le regionali di Domenico Miceli, candidato sponsorizzato dal capo mafia. E Giuseppe Acanto, uomo del boss di Villabate Nicola Mandalà, della cui famiglia in una cena in un ristorante di Campo dei Fiori avrebbe detto di far parte. Queste sono quello che dice il pentito Francesco Campanella, come racconta Repubblica pagina 14, il titolo: processate il ministro Romano, contribuì a rafforzare la mafia. Vabbè, il momento è anche da questo punto di vista giudiziario molto serio, tanto che il Foglio, per il secondo giorno consecutivo, il Foglio dice: ogni giorno ha la sua pena, ci dice uno dei massimi dirigenti del PDL, e non si fa che parlare di procure in stato di guerra. Si fa insistente il nome di uno degli uomini più vicini all'ex ministro Scajola. È lui il prossimo che vogliono colpire. Anche questa anticipazione, non si capisce perché si hanno notizie di eventuali inchieste che stanno per esplodere. Inchiesta invece che c'è è quella sulla vicenda Ruby con Nicole Minetti e il suo avvocato, che ha detto questa frase: una su tutte emerge dal processo, come racconta Giuseppe Guastella sul Corriere a pagina 15. L'avvocato di Nicole Minetti ha detto riguardo al seggio ottenuto perché il Premier l'ha imposta in Regione Lombardia: c'è chi ha avuto la Land Rover, chi la Smart, chi un appartamento in centro e chi è stato eletto al Consiglio regionale. Essere eletti con quel sistema non è reato. Questo ha detto l'avvocato di Nicole Minetti, tanto che Michele Serra nella sua quotidiana Amaca proprio riprende questa frase, no? E dice: all'avvocato sfugge una differenza tra una Land Rover e un mandato politico. La prima si paga coi propri quattrini, il secondo è a carico dei cittadini, che a Minetti pagano il notevole stipendio di tasca propria attraverso il prelievo fiscale. E conclude Michele Serra, seguendo il filologico dell'avvocato: forse non è un reato, però, mi scuso per la sintesi, fa veramente schifo. Come detto, alle 8.30 noi parliamo di testamento biologico, questa legge che è stata contestata. Saranno nostri ospiti il professor D'Agostino, che è un giurista, è presidente onorario del Comitato Nazionale per la Bioetica, e sarà il nostro ospite Beppino Englaro, il padre di Eluana Englaro. Registro l'intervista al ministro Galan alla Cultura, che oggi parla di questo tema, intervistato da Repubblica. Ho il terrore di soffrire come Eluana. Questa legge ci rende meno liberi. Sono contrario alle norme volute dalla Camera. Avrei voluto per me, come per tutti, la libertà di poter scegliere, di poter decidere la mia sorte nei miei ultimi giorni. Libertà di restare aggrappato a ogni forma di vita per chi lo desidera o ha fede, ma anche libertà e profondo rispetto per chi la pensa diversamente, non vuole andare avanti a oltranza. Parla di un diritto a morire, chiede Caterina Pasolini. Sicuramente di comprensione e possibilità di scelta per chi non vuole fare la fine di Eluana. Io ho il terrore di ritrovarmi come lei, per anni attaccato alle macchine. Ecco, adesso con questa legge io non ho più una via di uscita. E dice ancora il ministro Galan: ogni persona deve poter decidere del suo destino, dei suoi ultimi giorni, e la parola eutanasia, di fronte a questa parola, io non salto sulla sedia, non mi scandalizzo. L'unica argomentazione seria di questa legge è che è stata fatta, altrimenti decideva la magistratura. Questa è l'argomentazione più seria che ho sentito a favore di una legge che comunque continua a non piacermi. Così il ministro Galan, ne parleremo alle 8.30 del nostro sondaggio, ora il giornale radio.